piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono previsti 12 indicatori di benessere, si chiamano BES, che vuol dire benessere equo e sostenibile. La salute, l'istruzione, la formazione, il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita. Il benessere ambientale, naturalmente il capitale naturale nel quale viviamo e la soddisfazione che hanno le persone della propria vita. Lo shopping per me rappresenta veramente l'isola dove ripararsi, dove fuggire dalla quotidianità. Ti permette di isolarti veramente, di pensare, di concentrarti solo su di te, in più con la gratificazione di comprare, e ti compri qualcosa assolutamente per te. Il regalo non rappresenta nessuna fuga di piacere, anzi. Quindi ecco, direi che lo shopping, in particolare gli orecchini. Beh, io questa mattina voglio svolgere un servizio pubblico. Voglio aiutare il CNEL e l'Istat a dare più consistenza, più corpo, più raziocinio e rendere più realistici questi famosi 12 BES. La notizia di questa mattina, almeno nei quotidiani, ma se ne parla già da qualche giorno, si è pensato di valutare, di misurare il benessere di un paese non soltanto in termini rigidamente legati al PIL, ma anche con queste nuove 12 categorie, 12 indicatori, che sono gli indicatori di benessere, sono la salute, l'istruzione, il lavoro, le relazioni sociali, la politica, la sicurezza, la ricerca, l'innovazione, qualità e servizi. Però detti così, che vi sa dire? Se vi dico cosa vi fa sta bene, la qualità dei servizi, boh, non lo so. Questa mattina è esplosa una ruota di un autobus qui a Piazza Indipendenza, un botto, sembra una botta, un attentato, fumo, boom, è esplosa. No, quella è l'indicazione dei servizi. L'autobus con la ruota consumata è esplosa, sono scese tutte le signore tedesche, sono tutte andate verso la stazione Termini, verso il loro incerto destino. Ecco, quello è un indicatore, riguarda il punto 12 del BES, qualità dei servizi. Non esplodono le gomme degli autobus a Roma, e questo è uno. Altro indicatore, non so, sicurezza. Cos'è che vi fa star sicuri? Non lo so, volete andare per strada tranquilla senza che vi zompino addosso? E questo lo dovete dire. Ma diamo ancora, entriamo più ancora nei particolari. Voi questa mattina elencaste proprio quelle piccole soddisfazioni della vita, quelle cose indicibili, impronunciabili, che nemmeno noi stessi ci meravigliamo. Cioè, non so, aver bisogno di andare in bagno, correre verso casa, trovare la porta aperta, entrare, non c'è nessuno a casa, potersi spogliare, chiudersi in bagno e star tranquilli. Ecco, su quale BES lo mettiamo? Lo mettiamo su salute, il BES numero uno. E andando avanti, non lo so, visto che mi avete massacrato in questa storia dei gattini, dei cagnolini, dei cucciolotti, ecco il BES cucciolotto, avere un cucciolotto da carezzare, da sbaciucchiare, da spulciare, da spidocchiare, da portare in giro, da sgommolare, tutte queste cose qua, questo lo mettete nel BES relazioni sociali. Ecco, andando avanti così, io questa mattina vorrei che voi mi deste, ognuno, diamo tre categorie di BES personalizzato, cioè tre cose che veramente vi dà gusto fare, che veramente sono l'indicatore della vostra felicità quotidiana. Io per me, quello sogno, avere un letto con le lenzuola di bucato, pulite, belle, di puro cotone, con un lieve profumo sotto di qualcosa di antico, belle, stirate. Quando, se io fossi ricco, cambierei le lenzuola due volte a notte, per sempre lenzuola belle stirate. Io normalmente mi butto lì dove mi capita, in un ruvido e zozzo giaciglio, nemmeno mi spoglio. Questo è il mio sogno, questo sarebbe uno dei miei BES. Un altro BES cosa potrebbe essere per me? Alzarmi la mattina e non aver niente da fare, non avere l'angoscia delle cose da fare. Questo sarebbe un bel BES. Alzi la mattina, c'è davanti una giornata vuota, nessuno ti chiama, nessuno ti cerca, nessuno ti aspetta o si aspetta a te che tu faccia qualcosa. Non hai relazioni sociali, non hai parentele, non hai legami familiari, non hai affetti, non hai amori. Il vuoto assoluto, lo zen totale. Ecco, questo sarebbe un altro BES. Ma cominciate a elencare i vostri. Io, per rigore e per trovare qualcosa veramente originale, escludo le tre categorie, le tre S. Non mi venite a raccontare, il mio BES è starmene adagiato sul pelo. No, leviamo il sesso, leviamo i soldi e leviamo la salute. La salute non c'entra, non c'entriamo niente. Levate tutto ciò che è legato comunque alla salute, al sesso e ai soldi. Detto questo, massima libertà. Quali sono per voi i tre BES? Le tre cose che vi fanno veramente felici? Appena voi me le darete, io le classificherò e manderò una bella raccomandata con ricevuta e ritorno all'Istat e al CNEL, perché possono maggiormente lavorare sugli indicatori di felicità degli italiani. 800 24 00 24. Una cosa che mi fa stare veramente bene. Mi fa sentire veramente bene. Urca. Ah, ecco, ce l'ho questa. Stare insieme alle persone a cui voglio bene. Passare un pomeriggio in compagnia con le mie amiche guardando un film. Con le mie amiche. Fare colazione sabato mattina con le mie amiche. La colazione è vera, alla mattina quando mi sveglio presto e comincio a fare la colazione. E ci troviamo, siamo in tre e facciamo colazione insieme, prendiamo il cappuccino e la brioche con la marmellata. E facendo questo poi dopo mi carica per la giornata. È vero. Riposarmi molto. Mettersi sotto il piumone e guardare la TV per me è il massimo. Non mi puoi far scegliere, non ne ho una. Le piccole cose della vita, le piccole cose belle della vita. Farmi un giro da qualche parte. Ma andare in bicicletta. Andare in bicicletta. Andare in bicicletta. 800 24 00 24. Vedete già com'è difficile. Rispetto ai BES elencati a queste persone, cioè gli indicatori di benessere, già trovo qualche difficoltà a collocarli nelle 12 categorie, ma dirò di più. Ad esempio, i suggerimenti che mi stanno arrivando via SMS degli ascoltatori, che invito a chiamare all'800 24 00 24. So che è un sacrificio chiamare mentre si sta facendo girare la cipolla dentro l'olio che soffrigge, però fate un servizio al paese, perché l'Istat e il CNEL con le vostre indicazioni perfezioneranno, raffineranno il loro concetto di BES, che per ora è limitato a 12 categorie. Ad esempio, un signore mi dice: il benessere è una canna la sera dopo il lavoro. Nei 12 punti dovrebbe esserci pure legalizzazione, Davide. Mettiamo che sia cosa già fatta. La canna la sera dove la metto? In salute? Lavoro e conciliazione tempi di vita? In benessere soggettivo? In ricerca e innovazione? Beh, non c'è niente di innovativo. Ad esempio, poi un signore mi scrive, direi alimentazione, salute, istruzione. Scusate, siamo sinceri, non mi raccontate adesso che il BES è leggere un bel libro, guardare Piero Angia. Istruzione è una bella cosa, assolutamente, io sono sempre stato un fanatico dell'istruzione, ma non è che fa star bene l'istruzione. Mentre ci si istruisce, sì, si fa una fatica, si viene gratificati interiormente, ma stare bene vuol dire chiudere gli occhi, non pensare a niente. Qualcosa che ti attraversa ti dà felicità. Ecco, questo è il concetto di BES che dovresti aiutarmi questa mattina a definire. 800 24 00 24. Era un po' che io volevo comprare questo paio di scarpe. Allora, sono delle scarpe in pelle rossa e quindi non è che passano molto inosservato. E le scarpe in questione sono queste qui. Cioè, io le amo, cioè sono stupende. L'unica cosa è che non riesco a capire perché i lacci sono così. Cioè, sono lunghissimi i lacci e quindi non so mai come metterli, perché a me piacciono i lacci non dentro, dentro la scarpa. I veri problemi della vita, capite quali sono? I lacci dentro o fuori. Cominciamo a capire qualcosa che realmente ha a che fare con la vita concreta, non astrazioni. Ecco, la lunghezza giusta dei lacci delle scarpe. Già questo dovrebbe essere un indicatore, non costerebbe nulla. Fare una misurazione ergonomica dei lacci delle scarpe che non siano né troppo corti né troppo lunghi. Diego, buongiorno. Buongiorno. Vediamo il suo BES. Allora, uno è i cani e i gatti. Allora, aspetta, spulciare i cani e i gatti? Dove lo mettiamo? Su relazioni sociali? Anche salute e benessere. Anche salute e benessere, sì. Va bene. Ma la salute ne guadagna con le pulci tolte al cane? Sicuramente, no, con la terapia per entrambi, sia per gli animali che per noi. Ma però il BES è solo per gli uomini, solo per gli umani, sono limitati, no, purtroppo. No, fa bene, è rilassante. Va bene, e quello la salute e benessere, poi l'altro? Non aver paura della miseria, avevo scritto. Non aver paura della miseria, questo aspetti, quel che vuol dire non aver paura della miseria? Ma non lo so, per esempio quando uno rimane a casa che non c'è i soldi per la benzina e non può nemmeno andare in giro senza È un po', ma guardi, le posso dire, Funari, che era un genio, disse il vero segno della ricchezza, lui quando andava dal salumiere, che diceva: voglio duetti di mortadella. Dice: dottore, sono duetti 10 grammi, che faccio, lascio? Dire: lascia. Ecco, quello era un segno di benessere. Questo intende lei? quando misura la mortadella o il salame o il prosciutto o se lei è vegano i fagiolini, le zucchine, via dicendo, dice c'è 100 grammi in più, ma lasci, che chi se ne importa. No, credo poter prendere un fungo invece che la lattuga, non so, cioè, ecco, le piccole cose, non dovere contarsi i soldi per le cose minime, ecco. I semi di chia che costano tanto, il goji troppo caro, non posso prenderlo, credo. Invece avere quella libertà di poter puoi prendere minimo. Tutti i semi di goji senza perdere tempo. Quanto costano i semi di goji? 6-7 al chilo. 6-7 euro al chilo. Nemmeno meglio, forse alla confezione piccola, 6-7 euro, non mi ricordo più. Quindi poter andare a comprare i semi di goji senza doversi fare il conto dei soldi in tasca. Bacche di goji. Bacche di goji. Per esempio, sì. Cose care, un po' più care che fanno bene, no? Quei, piccoli, quei piccoli lussi non che... Non potersi che... prendere un gelato, non potersi prendere una pizza la sera, pizza e birra e supplì, non posso, hai capito? Beh, però lei ha ragione, ovviamente il vero indicatore è questo. Non è dire mi posso comprare una casa, un'automobile, così. Non doversi fare il problema di fare una vita decorosa ma senza la micragna, dire ma faccio la pizza ma che prendo la margherita che costa meno, la quarta stagione no, costa 2 euro in più, ce l'ho, poterci so. Andare avere, mettere 10 euro di benzina tranquillamente, avercela una casa dove andare, cioè che la casa dovrebbe essere, va bene, le piccole cose che non ti danno preoccupazione, anzi, chiaro. Tiziana, tranquillità, ce n'è un altro, ecco. Ce n'è un altro prima che la chiudo, non me lo ricordo più, quale avevo messo? Dimenticare che si ha bisogno di qualcosa, questo è il terzo, come lei è talmente felice che non pensa di cosa ha bisogno. Tiziana, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. I suoi io best. Parlo da Modena. I suoi best. Lavoro delle 12 ore al giorno. È un mestiere che mi tiene sempre molto ben impegnata con le persone. Sono a contatto sempre con tantissime persone. Adesso aspetta, no, ferma. Tiziana, ferma un attimo. La domanda non è fatemi il quadretto della vostra felicità. La mia soddisfazione, quello che mi dà soddisfazione è poter dire basta alle 10 del mattino perché c'è un lavoro che è indipendente, mi prendo sulla macchina senza avvertire nessuno e magari anche se sono stanca vado al mare. Allora ferma un attimo, Tiziana, bisogna essere precisi perché loro vogliono, non può essere un discorso. Allora primo, poter interrompere ogni istante il proprio lavoro senza che nessuno protesti della giornata, questo? Tiziana era talmente felice che ha interrotto la sua telefonata e se n'è andata. Beh, 800 24 00 24, devo darvi delle raccomandazioni, non lunghe disquisizioni, non dovete raccontare la vostra vita, dovete sintetizzarlo, deve essere una cifra, un numero, una espressione simbolica. Vediamo se ci fa Alessandro Samelli. Alessandro, vediamo i suoi tre best, vediamo se riesce a ridurli in tre parole. Primo, rispondere e avere la voce quando si chiama la radio. Potrebbe essere uno. No, Alessandro? Sì, la sento lontanissima. Vabbè, se la sento lontana. Sì, salve. Purché salve, mi sento. Nicoletti. Dica i suoi tre best, allora. Allora, io guardi, ne ho solo uno che volevo dirle, che è il sogno. Cioè, sognare di notte, dove tutto è possibile, tutto si può costruire nel sogno. Quindi avere la possibilità di sognare di notte. Sì, quando proprio ci rendiamo conto di sognare, un sogno lucido che poco prima ci fa svegliare. Un sogno, un'attività onirica ipnagogica, così si dice, questo vuole lei, che vuole essere cosciente dentro il suo sogno. Ecco, però se io devo dare un'indicazione a Istatecnel, come fornire sostanze adeguate perché le persone possano sognare di notte, potrebbe essere tradotto così. Diciamo che forse gli indicatori che danno appunto dei best, di questi 12 best, se venissero rispettati in una comunità, in una società, forse le persone avrebbero una tranquillità maggiore, quindi sognare di più. Quindi il sogno è legato alla tranquillità durante il giorno? Eh certo. Allora cosa lo mettiamo? Lo mettiamo sul set? Sicurezza? Guardi, è difficile. Io lo metterei su sicurezza, ma anche ricerca e innovazione, che è una sostanza che formalmente non esiste, che stimoli a sognare. Dovrebbe lei ogni sera prendersi una pillolina e sognare. Faccio una citazione di Huxley, no? Nel mondo nuovo, dove in questo mondo futuristico c'è una pasticca che ti dà la felicità. E quindi tutto si risolve con quello. Poi che ci siano i servizi, che non ci siano. È certo. Chiaro che anche il supporto farmacologico possa avere un effetto di impatto. Ma io guardi, sono totalmente laico, non mi scandalizzo. Un supporto farmacologico che ci faccia sognare la notte, così il giorno non ce ne importa niente quello che ci succede. Vedi, stiamo radicalizzando, ma dando, questo anzi lo metterei proprio su ricerca e innovazione, il BES 11, una pasticca che ci faccia sognare di notte, che non vediamo l'ora, che arriva l'ora di andare a letto, prendiamo la pasticca e sogniamo. L'idea di Matrix, però lei vorrebbe ricreare una matrice. Ci fermiamo un istante, 800240024, continuate tra poco, suggeriteci i BES, così daremo un servizio al paese, ma anche all'Istat e al CNEL. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Elogio della leggerezza. Non ho tempo, non ho spazio, mi sento oppressa. Non ho tempo, soprattutto. Non ho mai tempo per fare le cose che devo fare. Non ho tempo per ascoltare le persone che devo ascoltare, per dire le cose che devo dire, per dedicare tempo appunto alle mie cose, a chi mi è caro nella vita vera, quella che inizia alle 8 di sera e termina alle 8 di mattina. Non ho spazio. Non ho spazio per me, per le mie cose, per i miei libri, per la mia famiglia, per le mie passioni. Spesso neanche per i miei pensieri. Non ho spazio in casa. Non ho spazi a sufficienza. Allora butto via. Butto via tutto. Quanto ho di utile e superfluo, caro, banale e prezioso, vecchio e nuovo, piccolo e grande. Mi sento pesante. Questo è un suggerimento di sistema. Noi vorremmo suggerire un tredicesimo BES, che è il diritto alla leggerezza. Il diritto a essere leggeri vuol dire anche riuscirsi a liberare delle cose che si ritengono superflue. Libertà di alleggerimento. Sentirsi leggeri sarebbe forse il BES che racchiude in sé tutti i BES. Però andiamo avanti con i suggerimenti dei nostri ascoltatori. Abbiamo detto, Istat e CNEL stanno dando le nuove categorie del benessere, elencate in 12 categorie, e noi diamo delle sottocategorie. Specifichiamo. Michela, buongiorno. Buongiorno Gianluca, sono Michela. L'ascolto. Il suo BES. Buongiorno. Bene, bene, grazie. Volevo dire. No, il suo BES, me... non ho chiesto se stai bene. Spero. Pronto? Sì, Michela. Sì. Sì? No, ascolto, fai uso di sostanze la mattina, bevi superalcolici? Hai il tavernello nella borsetta? No, sono ancora sotto anestesia del dentista, però. Ah, sì, quindi hai la bocca praticamente insensibile. Volevo dare la mia opinione, dire un indicatore del mio benessere è fuggire e andare da Ikea. Ah, andare in un grande super mega store e girare in queste città del benessere, cioè dell'acquisto. Questo ti Ikea, piace? Ikea, in modo particolare. Da sola o con altri? E costringo il marito. Vabbè, ti porti dietro il marito, va bene. E cosa fai? Spiega meglio, perché è poco dire vado a Ikea. Mi piace sognare negli ambienti, come potrei anche modificare vari aspetti della mia casa, piuttosto che anche buttare giù pareti, creare situazioni diverse. Però esci e non compri soltanto le polpettine e la marmellata alla fine, quelle che vendono la cassa, ecco così. Tu sogni di cambiare tutta la casa, policrome lenzuola, io sono sempre fissato con le lenzuola, ognuno ha le sue debolezze, perfetto, tappeti, perfetto. Questo mobiletto, i divani sembrano stupendi quando li vedi all'Ikea, te li porti a casa, poi ti rendi conto che dopo un po' ci stai male con le ossa, andando avanti, stoviglie colorate, tutto in tutte le gamme di colori, il mio sogno da bambino, avere qualunque oggetto declinato in tutti i colori, un'infinità di colori. E poi esci, ti pigli le polpettine e la marmellatina lì di la marmellatina e anche la polvere per fare la salsa, quella. Sì. E poi basta, fine. Vai a casa, ti fai le polpette col marito, con la robetta verde sopra, ve le mangiate. Le mangio qui, poi le porto a casa, ma non è la stessa cosa mangiarle certo. A casa. Perché sono altre polpette, quelle come le fotografie dei gelati, la coppa gelata o anche il cornetto da piccoli sembrava una cosa meravigliosa. La prima era un affare estetico in colore, in forme, questo è il bello. Ti puoi illudere all'Iclea. Allora mettiamo questa qua, la mettiamo io su paesaggio e patrimonio culturale, il BES numero 9. Su paesaggio e patrimonio culturale invece sono delle cavolate, andate a vedere i beni architettonici, andare nei grandi magazzini, nelle grandi città dell'acquisto, e girare e sognare e contaminarsi con la merce e uscirne molto appesantiti di desiderio, ma allo stesso tempo felici. Cinzia. Buongiorno, dottor Nicoletti. Sì. Per quanto concerne un desiderio, ci accomuna. Abbiamo un desiderio in comune. Anch'io ho sempre desiderato avere delle lenzuola fresche di bucato, ben stirate, però sono un pochino più esigente di lei, mi piacerebbero sempre di lino. Ma di lino sono ruvide, questo è un altro luogo dell'immaginario, la lenzuola di lino, ma che lino? Ti rovini alla pelle. Esiste il lino podange, pelle d'angelo, che è molto morbido. Ma no, sono felpate, pelose, fanno... Dai, la lenzuola è fresca, sono cose da vecchi, sono robe da nonne, le lenzuola felpate. Chi le dice che non sia una nonna? Allora non dormiremo mai insieme nelle stesse lenzuola, stia tranquilla. Credo di Ma io vorrei addirittura, pensi adesso che una cosa mi aspetteranno con i forconi e le fiaccole fuori, vorrei una servitù che non ho mai avuto, che me le cambi ogni tre ore dice, signore, il cambio lenzuola, mi alzo e cambia le lenzuola. Perché mi ricordo, quando ero piccolo, avevo il morbillo, la varicella, queste cose qua, il bello era che ogni tanto veniva la mamma o la nonna e si impietosiva delle tue piaghe purulente e ti cambiava le lenzuola e metteva le lenzuola fresche. Ecco, vorrei essere perennemente piagato e purulento e mi cambiano le lenzuola continuamente. Rimboccando dolcemente le lenzuola. Ma no, che rimboccando, che sarà tozzata. Nel senso, vabbè, Cinzia, abbiamo capito, lenzuola le mettiamo in benessere soggettivo, perché non va bene a tutti. Ce n'è altre, ce n'ha? Sì, ne ho altri due. Ah, li dica allora, giustamente. Una fredda sera d'inverno, sì. Con una bella poltrona comoda davanti a un camino acceso. Io immagino Giuseppe De Rita che in questo momento sta lì a prendere appunti. Allora dobbiamo dare un camino acceso a tutti gli italiani con la coperta per metterla nel BES 10, ambiente. Perfetto. E poi l'altra, perché oggi commenta sulla Repubblica questa vicenda dei BES, sì. L'altro è di tipo sportivo, una cosa che mi dà grande benessere è veleggiare con una barca a vela in una bella giornata di mare, andando di bolina senza un vento esagerato, ma un vento bello, bello teso. Questo è estremamente rilassante e meditativo. Ci sarebbero dei problemi, perché si stanno prendendo appunti al Censis, perché poi sono il Censis quelli che misurano esattamente cos'è l'Italia. Le popolazioni di montagna come fanno a avere la barca a vela? Prendono il treno e vanno al mare. Quindi bisogna fornire gli italiani in montagna, se, ammesso che nel BES entrasse anche la barca a vela, di un treno per poter raggiungere le zone dove si possa andare in barca. Va bene, benissimo. Roberto? Sì, pronto. Roberto, i suoi BES? Allora, io per quanto riguarda la mia esperienza personale, a me piace tanto stare in campagna, un pezzettino di terreno dove vado lì, mi rilasso. Quindi fare l'orto, diciamo, fare l'orto. Non proprio l'orto, magari l'orto è troppo impegnativo forse. Mm. Far finta di coltivare. Piante dove si dedica tanto lavoro, si fa tanta fatica, però nello stesso tempo ci si rilassa tantissimo. Questo lo mettiamo in paesaggio e patrimonio culturale, nel BES 9. Certo. Poi ce n'è altri? No, questa è la cosa che più mi piace. No, vede, mi piace che il campione nostro è esemplificativo di un'esigenza a spettro vasto, perché la signora prima ha espresso il sogno metropolitano per eccellenza, andare a Ikea e perdersi a Ikea. Lei lo stesso tipo di desiderio, però applicato in un'ambientazione agreste, quindi spaziare i luoghi dell'immaginario, siano essi popolati da immagini agresti, se essi popolati da immagini di non luogo. È bellissimo questo. Silvia. Sì, buongiorno, ciao. Il suo BES. Ecco, io vorrei, sono due le cose che vorrei. Due BES. Intanto mi piacerebbe non fare da mangiare. Mica c'è una legge che la obbliga. No, però insomma, devo. Ma deve, perché il devo a cosa è legato? Alla famiglia. Scusi, esiste un signore con un cappuccio nero e una scimitarra in mano davanti al suo frigorifero che se non cucina le taglia la testa? Però se non lo faccio io non si mangia. È un obbligo. Scusi, è un obbligo giornaliero. Ma guardi, l'obbligo è solo suo, se lo può di lei. No, il terzo giorno che non mangiano, i suoi si procurano il cibo. Cioè, è vero. Faccia è la prova. Scusi, Cinzia, masochisticamente vuole continuare a entrare nella figura della povera donna condannata, ahimè, dalla sua natura a cucinare. Smetta di cucinare, spenga il fornello e se ne vada. Va bene. No, ma cosa succede? Per capire cosa succede se smette. Prima non posso più sentire questo vittimismo. Ho avuto tutta la vita, vi ho cucinato. E chi te l'ha fatto fare? Perché? Lo so, però d'altronde il figlio deve mangiare anche lui. Ma il figlio quanti anni ha? Ora 20. Beh, a 20 anni c'ha bisogno della mamma che gli cucina, mi scusi. non è capace di andare al supermercato, prendersi un ovettino, sbatterselo con un po' di sale e metto nella padellina, prendo pomodorini e farsi un po' di sale. Aspetta la scena e io devo farla. Se lei ha la passione di fare la schiava, questo è il mio desiderio. Allora scusi, il suo best è fare la schiava. Sono sola, lo farò. Il suo desiderio è fare la schiava al figlio. Questo no, la schiava, dai. No, si chiama schiava. Una che ha uno di 20 anni. È una passione che non ho, invece tante donne hanno. Ma scusa, ma se non ha questa passione, perché deve farlo? No, vorrei capirlo. Non mi dica è vero stare rassegnata, perché lo fa? No, questo ha tutte le mamme più, che... non lo farò più. Ma lei lo farà, figo, lo farà fino alla fine dei suoi giorni. Rantolerà con tutti i fili attaccati, il prete che la benedice, il medico che dice ormai è andata, la stiamo perdendo, e lei starà ancora lì con la padella a soffriggere la cipolla per il figlio che allora avrà 80 anni. Roberto, no, spero di no. Come no, questo è il suo destino. Aiuto, ci pensi. Roberto fatto Mariella. Ah, buongiorno Nicoletti, buongiorno, l'ascolto tutti i giorni, io avevo un numero ben specifico da darle. Sì. Per me il concerto numero 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff. Se lo metta nell'iPhone se lo senta 18 ore mi al giorno. Mi fa letteralmente sognare, io lo sentirei non so quante volte al giorno. Perché non lo sente? È una cosa sfavolosa. Ma perché non lo sente allora? Pronto? Perché non lo sente, Maria? Sì, perché... ma lo sento, c'ho anche il CD, ma lo sento sempre, però è fantastico, uno chiude gli occhi e sogna quello che vuole. Le basta quello, le basta. Va bene? Se figliamoci, è la cosa più semplice del mondo. Se fosse così per prego, tutti... Non se sento fosse... bene, come? Grazie, a forza di sentire il concerto per numero 2 di pianoforte di Rachmaninoff è diventata sorda, continui ad ascoltarlo. Salta il traffico, che vuol dire? Vado avanti? Va bene, vado avanti, andiamo avanti perché salta il traffico. Ecco, può essere il mio best che salti sempre il traffico, una cosa meravigliosa, quindi non devo fare pausa, niente, vado avanti. Sono stato esaudito, allora best per CNEL e Istat, salti il traffico. Andiamo avanti, allora, Mariella abbiamo capito, è diventata sorda perché sente troppo... A due non c'è niente, che mi dite? Ah, Davide. Davide, buongiorno Nicoletti, sì. Mi sente? Sì, la sento. Ah, perfetto, allora io ne ho due. Uno è quando sei pieno di lavoro, che proprio non ne puoi più, staccare il cellulare, prendere un pomeriggio e andare a farsi fare un massaggio. Una volta ogni tanto, ma non se lo si può permettere. Massaggio romantico o massaggio? No, un massaggio per staccare. Ma dove va a farsi fare il massaggio? Un po' dove cazzo, io sono di Milano. Ma va a risparmio, va dai cinesi o se lo fa fare da... No, più dai cinesi, vado a prendermi 3 ore per conto mio, vado a fare un massaggio. Io non ci sono mai andato, mi spiega come funziona? Tu sei un posto scritto massaggi sopra. Lei non ci ha mai andato? No, mi spieghi. No. Tranissimo, avrei mai detto. Scusi, perché ascoltandoci questo uno si va a fare i massaggi. Io devo dire la verità, non l'avrei mai detto. Comunque perché lei, secondo lei, io da quello che esprimo ogni giorno alla radio da 30 anni, do l'aria di uno che si va a fare i massaggi. Non ci sa niente. Io la seguo solamente da 5 anni e se fra sì e no avrei detto sì, ogni tanto si va a fare un massaggio. Ma non vedo il glebo di farsi fare un massaggio, onestamente, me lo spieghi lei, veramente. Guardi, io non so, è veramente una questione di dire stacco con tutto, ne ho piene le scatole perché lavoro troppo, perché sono tornato tardi la notte, perché. Mi prendo 3 ore e vado a farmi fare un massaggio. Ma scusi, la mia idea è che quando uno stacca con tutto, non gli vale avere una persona che ti maneggia la schiena, che gusto dà? Non lo so. Il gusto che proprio per 3 ore ti fai con i tuoi, ma cavoli me non vorrei nessuno vicino, io non vorrei uno che mi manipola. Infatti, questo è uno dei tre. Un altro invece sarebbe andare nel bosco per conto proprio o nel fiume, cioè prendere, staccare da tutto e non vorrei neanche. Ma nel fiume con una legata a una pietra al collo, nel fiume camminando sull'acqua e guardando con una canna da pesca o nel fiume osservando il fiume che scorre? Quale nel fiume osservando il fiume che scorre. Il fiume che scorre, benissimo. Fermo, però in mezzo alla natura vera, insomma, in mezzo alla natura vera. Vabbè, basta andare verso qua vicino a Calcata, ci sono delle acque bellissime. Sì, adesso... per me da Milano non sarebbe molto vicino, però insomma mi organizzo. C'è Navigli, dai, c'è qualche topolone, ma va bene. Insomma, sì, ma vado più che altro sull'Adda, dove sono Tink, Siluri e robe del genere. Il pesce Siluri. E il terzo? Sì. E il terzo, escludendo l'adagiarsi sul pelo, che io trovo veramente restringa non di poco le possibilità. Il pelo no, va tolto, mi dispiace. Se no è troppo facile, tutti direbbero quello. Però è vera. Le prime tre opzioni che sono pelo, soldi e salute le abbiamo tolte, poi sarebbe sesso. Vediamole da quello in giù, perché quello poi alla fine, guardi, anche questa roba che tutti dicono sesso dalla mattina alla sera, ma diciamoci la verità. Sì, senza esagerare, dice lei, però ogni tanto dopo le prime 12 ore uno si stanca, dice basta, si rilassa un po'. Sì, dopo sempre un po' che sta... stufo, vero, però Insomma, vabbè, escludiamolo così perché abbiamo scelto questo. No, perché vabbè, se no è banale. Poi non, secondo me non lo metterebbero nei BES perché non è che possono scrivere pelo, non è brutto, sta male. Poi non va, adesso, allora vabbè, abbiamo capito, Giuliano. Giuliano. Sì, ciao. Il suo BES. No, no. Ciao Gianluca, ti chiamo da Perugia. Va bene, da Perugia. Allora, il mio sogno è una cosa di ripetere quello che magari ho già fatto in gioventù. Un weekend, un sabato e una domenica con uno spiderino d'epoca, un 124 Spider, una Morgan, una Triumph Spitfire, in coppia, partendo da Perugia, andando sulle colline senesi, andare magari a Rapolano Terme o qualche altro bagno Vignoni, farsi un... Ma perché ci vuole andare col 124 Spider? Guarda, io ho fatto con l'MG, non è che sia poi tanto bello, perché ti rincoglionisci dal rumore, respiri a mezzo metro da terra e ti passa sopra anche una Smart più alta di te, non è bellissimo? Sono legato a quei ricordi in cui i camion ce n'erano pochi. Sì, ma la femmina che porta con sé arriva incatramata, cambia destinazione d'origine quando arriva, parte con una perugina e torna con una tunisina, perché si rende conto che vuol dire oggi andare in autostrada con uno Spider 124. No, ma sono rigorosamente statali e provinciali. Da Perugia si fa la vecchia strada per Arezzo, poi a Siena, si evitano tutti i raccordi, si evitano tutte le strade che hanno 300 metri di strada dritta, solo curve e solo bosco. Sì, ma gli vomita in macchina, perché è una macchina assolutamente non adatta per fare le curve, secondo me, non lo so, quelle che lei suggerisce. Comunque, arrivati a qualche a Bagno Vignoni, si ferma a Bagno Vignoni, ora Polano Terme, Bagno Vignoni, con quest'acqua calda, dove anche Caterina da Siena praticamente c'era quasi convertita lì dentro. Sì, perché... sembra che facesse la pipì dentro la piscina, la scoprirono subito Santa Caterina. Sì, c'è qualche reattivo che... No, è per quello rimase calda la piscina, c'è un miracolo, bene, ne parlano, la gente certo. Del posto lo dice. Infatti teneva lontani i cavalieri di Siena che andavano via a tentarla. Certo, esattamente. Scaldando tutto quanto. Ma comunque il mio sogno è il miracolo della piscina. È molto semplice. Si chiama molto così, miracolo della piscina. Non ridete, si chiama miracolo della piscina. E vabbè, ridono dietro il vetro. Prego. È la piazza quadrata di Piazza di Bagno Vignoni. Sì, conosco comunque benissimo. Comunque il mio piccolo sogno ripetibile, anche se la mia... Eh sì, però c'è un problema, guardi, se questo corrispondesse al sogno di tutti gli italiani, ci sarebbe un ammasso terribile di persone a Bagno Vignoni. E quindi come si fa? Beh, bisogna tenerlo come desiderio di nicchia, anche Derita, insomma, ne terrà conto. Può andare anche, che ne so, a Castel Rigone, posti più vicini, visto che sta per Castel Rigone, sì, naturalmente. Va bene. Tra i etruschi comunque ci si intende meglio. Sicuramente, è importante avere le spalle al muro. Francesco. Sì. Il suo desiderio, il suo BES. Il mio BES è andare nella chiesa evangelica che frequento qui a Prato. E ma chi glielo impedisce? Può andarci tranquillamente. Sì, benissimamente. Lei vorrebbe starci tutto il giorno. Stare poi con i fratelli a mangiare, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa personale. Ma scusi, non si può fare... per lo Stato, per gli altri, sarebbe questa cosa di praticamente essere liberi di andare nelle chiese, qualsiasi cosa del giusto. Ma nessuno lo impedisce. Sì, poi scusi, nessuno impedisce andare in chiesa. No, il nostro paese ancora, grazie a Dio, ognuno può andare dove vuole, in chiesa, in sinagoga, anche in moschea, dove gli pare. Questo è quello che è una cosa. Può passare giornate nella sua chiesa evangelica insieme ai suoi confratelli a pregare e a fare vita comunitaria. Questo è il mio paese. Io la ringrazio, signor Nicoletti. Sono contento, perché vedete, è una cosa possibile, però non è. E non so che nemmeno come potrebbe intervenire in qualche maniera per favorirla l'Istat e il CNEL, perché normalmente lei può andare quando vuole. Non so se le chiese poi sono così affollate, lì mi troverebbe anche molto spazio. Alice. Sì, Il mio best sarebbe andare in montagna, una montagna piuttosto alta, e poter vedere le stelle di notte. Perché sono più vicine, per questo? Ma sono più vicine, sono più limpide, sono più toccabili. E beh, toccabili, ancora c'è un po' di distanza, sembrano. Sì, ma toccabili con la fantasia, con gli occhi, non col cervello. Quindi lei vorrebbe vedere le stelle? Sì, non quelle dolorose, non le stelle dolorose. C'è anche chi vuole quelle. Ci sono anche quelle dolorose. come quelle sede. Non le vuole. Vabbè, abbiamo capito. No. Abbiamo, vedi... però volevo fare riferimento anche al nostro sommo poeta Dante, il quale sì. Uscendo dall'inferno, sì, no, davvero. Sempre a vedere le stelle. Ma penso un po', ma ha fatto una citazione che mi sfuggiva. Veramente brava, brava. Ecco, abbiamo nel nostro pubblico comunque un desiderio di astrazione. Voi pensate, la gente voglia soldi, beni materiali? No, vogliono vedere le stelle, vogliono andare in chiesa, vogliono la campagna, spaziare per i luoghi dell'IKEA. Basterebbe molto poco per far felici gli italiani, ma mi sa che questo l'hanno capito. Alla prossima!